You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Take a little and let your poor heart break a little. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, versione serale, cambia l'orario ma non lo spirito della trasmissione che ha sempre come ospite uno o più italiani di origine straniera. I temi del film che avete sentito all'inizio, le coppie miste, i pregiudizi razziali, l'integrazione fra culture restano attuali, ma noi pensiamo che si possano superare come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani e stasera parliamo con una giovane che è venuta a cena da noi, a cena stasera a Radio 24, c'è Loredana, buonasera. Buonasera. Grazie di essere con noi. Loredana è una studentessa e anche una lavoratrice che vive a Milano con la sua famiglia ed è una ragazza rom, è giusto Loredana? Giusto, giusto. Quindi parliamo, abbiamo l'occasione di parlare con una ragazza rom. Questa sera innanzitutto Loredana che cosa ci hai portato, che piatto? Quindi in questa sera ho portato il piatto di sarmale, si chiamano in voltini diversa, con la carne macinata dentro e condimentata con cipolla e sale e tutto quello che ci serve. È un piatto che immagino a casa tua venga preparato spesso. Sì, molto spesso. Perché è tipico della tua origine, della tua cultura. Sì, sì, sì, si consuma tantissimo da noi. Tu vieni dalla Romania, è così? Sì, dalla Romania. Chiaramente la cucina rom non è solo una cucina, è una cultura nomade per eccellenza, quindi anche questo aspetto si riversa sulla tradizione culinaria di questo popolo. Allora sentiamo quali sono le caratteristiche della cucina gitana. Cucina rom. La cucina gitana è poco conosciuta, ma molto interessante, perché, dato il carattere nomade della popolazione, fonde in sé le tradizioni dei vari paesi toccati dalle migrazioni ed è il risultato di peregrinazioni secolari tra Oriente e Occidente. Ogni etnia ha infatti un proprio patrimonio di ricette mutuato dalle tradizioni culinarie dei paesi attraversati, interpretate alla luce di un'antichissima arte di arrangiarsi. Gli zingari in Italia si suddividono essenzialmente in cinque gruppi: Rom, Sinti, Calè, gitani della penisola iberica, Manouche, francesi, Romani Charles, inglesi. Il risultato delle diverse contaminazioni è una cucina povera all'apparenza, ma ricca di sapori. I dolma e i sarma sono i due piatti più popolari, comuni a molte etnie. I dolma sono peperoni ripieni di riso, carne tritata e pomodoro. Per la cottura vengono disposti verticalmente in una pentola chiusa con dell'acqua sul fondo. I sarma sono involtini di cavolo cappuccio preparati con lo stesso ripieno. La pitta è un'altra golosità, diffusa tra i rom di molti paesi d'Europa. Si tratta di una sfoglia di acqua e farina da cui vengono ricavati lunghi cilindri, successivamente riempiti di bietola e ricotta o di carne, patate e cipolle oppure di uova e ricotta, che vengono adagiati in una teglia da forno a mo' di spirale e successivamente cotti in forno. Natale è occasione per gli zingari di mezza Europa di grande convivialità. Si fa il pane in casa e si preparano dolci da consumare tutti insieme. Secondo la tradizione è consuetudine cuocere allo spiedo una pecora intera, dopo averla riempita di patate e rosmarino, spennellata di birra durante la cottura, che generalmente avviene su un grande letto di braci ardenti. La pecora così preparata fa parte anche del menù abituale dei banchetti nuziali, altra grande tradizione rom. Così come consuetudine diffusa, l'uccisione di un agnello in segno di gratitudine e di buon augurio, ad esempio quando un bambino guarisce da una malattia. Un dolce antico da consumare in occasioni di feste e matrimoni è l'alvava, simile alla nostra polenta, fatto con farina cotta nell'olio, a cui si aggiunge sciroppo di zucchero, frutta secca e pinoli. Quando sei arrivata in Italia? Avevo 15 anni, quindi più 8, ho quasi 8 anni da quando sono in Italia. Quindi con la tua famiglia sei arrivata. Da quale zona della Romania provieni? Vengo dalla zona di Craiova, più dal sud della Romania. Siamo qui da 8 anni, ci troviamo bene. Quindi lavoriamo tutti. Ecco, appunto, noi parliamo con te per raccontare uno spaccato d'Italia che conosciamo forse noi un po' poco, no? Siamo abituati a pensare ai rom come a persone che abitano in insediamenti, campi rom, in situazioni insomma legate al nomadismo. Invece voi avete una casa, lavorate, siete integrati nella cultura italiana totalmente. Sì, sì, noi abbiamo la casa, abbiamo il lavoro, abbiamo fatto la scuola qui. I miei fratellini, che ho ancora due, l'hanno presa già dalla prima elementare. Adesso lavoro, però adesso faccio la cameriera. Faccio la cameriera, però nello stesso tempo sto studiando anche al conservatorio di La Verdi. Che è tra l'altro una tradizione di famiglia, mi pare di capire che anche tuo padre sia un musicista. Sì, sì, sì, anche lui. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino. Ma torniamo a parlare con Loredana di questo suo essere rom in Italia, di essere così integrata nella nostra cultura. Tra l'altro, parlando di musica, bisogna dire che la cultura rom, gli zingari, hanno sempre ispirato molti artisti. Stiamo sentendo in questa puntata proprio musiche di De André, di Bregovic e di altri che hanno così, che si sono ispirati alla cultura nomade. babushka. Ci fermiamo un attimo, torniamo a parlare di cultura rom con Loredana tra poco. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Cry a little, sigh just a little. Let your cloud roll by, baby, a little, but baby, that's the glory of love. Long as there are just the two of us, have the world in its charm. Long as there are just the two. Da questa stagione di Indovina chi viene a cena proponiamo sempre in apertura della seconda parte diverse versioni della canzone del film Indovina chi viene a cena, reinterpretata negli anni da diversi autori con sonorità diverse. Ma torniamo a parlare con Loredana. Io faccio sentire adesso degli audio presi dai telegiornali di qualche giorno fa, li ascoltiamo assieme. Dublino rivive il mistero di Maria, la bimba bionda trovata la scorsa settimana in un campo rom in Grecia. La polizia irlandese ha portato via una famiglia rom residente nel sobborgo di Tallat, una bambina di 7 anni. La coppia afferma che la piccola sia la loro figlia naturale, ma gli occhi azzurri e i capelli biondi hanno insospettito la Garda, che ne ha disposto l'affidamento ai servizi sociali. La stessa sorte che è toccata alla piccola, trovata in un campo rom vicino Farsala, a nord di Atene. Maria non è nell'elenco Interpol dei 610 bimbi scomparsi in tutto il mondo. Stavolta in questo parcheggio di un centro commerciale di Catania. È successo giovedì sera, ma la notizia, dicono in questura, non è stata divulgata per evitare psicosi. Due zingari, un uomo e una donna, lei 19 anni, lui 22, hanno cercato di rapire una bambina. Sara, chiamiamola così, 3 anni, era sul carrello della spesa. La mamma stava caricando in macchina le buste di plastica. È stato in quel momento che una giovane zingara le si è avvicinata per chiederle dei soldi che le sono stati rifiutati. È stata trovata in un campo rom di Farsala in Grecia, bionda, occhi azzurri, la piccola ha circa 4 anni. Ad insospettire le forze dell'ordine durante un'operazione è scattata per cercare armi e droga i lineamenti nordici della bambina. Poi l'esame del DNA ha confermato che non esiste nessun rapporto di parentela con quelli che si professavano i suoi genitori. Quindi l'appello internazionale per identificare la piccola ribattezzata Maria. Migliaia le segnalazioni da tutto il mondo che stanno arrivando all'associazione The Smile of the Child. Su una decina si concentra l'attenzione degli investigatori. I due finti genitori, 39 e 40 anni, dovranno rispondere di sequestro di minore e uso di documenti falsi. Questi audio si riferiscono a radiogiornali, telegiornali di qualche giorno fa, di questo episodio di una bimba bionda e bianca che è stata trovata qualche tempo fa in Grecia, in un campo rom, e subito è scattato l'allarme pensando che questa bimba fosse stata rapita da queste persone. Una psicosi che è dilagata anche in Irlanda. Poi sono stati trovati due fratellini biondi, bianchi, anche loro in un campo rom. Alla fine, insomma, tutto si è risolto. In realtà nessuno di questi 3 bambini era stato rapito dai rom. Però quello del rapimento per i rom è, insomma, una leggenda, un pregiudizio che è un po' così, dilaga un po' nella nostra società. Loredana, tu quando senti queste notizie che cosa pensi? La verità io la dico, io non penso che i rom rapiscono i bambini, perché io non l'ho mai sentita questa storia. cioè dai noi i rom. È una leggenda metropolitana che dilaga. Dico leggenda metropolitana perché in realtà dai dati della Polizia di Stato si capisce che dal 2006 al 2012 l'80% dei bambini rapiti in realtà sono stati rapiti dai genitori stessi, oppure si sono stati allontanamenti volontari di questi bambini dalle comunità, quindi in realtà di rapimenti di questo tipo non ce ne sono, quindi è un po' uno stereotipo, un pregiudizio che vi rimane un po' appiccicato. Questo ti dà fastidio? Un po' sì. Senti, tu sei andata a scuola in Italia e anche i tuoi fratelli, ci dicevi, c'è verso le persone rom in Italia un pregiudizio? Tu sei stata mai oggetto di razzismo? A volte sì, a volte no, a dire la verità. Allora raccontaci un po' quando è stato un caso negativo in cui ti sei sentita un po' vittima di un pregiudizio, di un razzismo. Cioè, io stavo parlando proprio con una ragazza italiana che lei non sapeva che io ero rom. Quindi lei sapeva che io sono rumena. Ho iniziato a parlare un po' così, si è comportato bene. Però poi quando ho sentito che sono rom ha iniziato a allontanarsi, quindi io mi sono sentita un po' male. Ecco, quindi, visto il suo... quindi non tanto per il fatto che sei straniera, ma proprio per il fatto che sei rom. Sì. Hai visto un cambiamento in lei? Sì, l'ho visto subito, cioè subitissimo. Ma una collega di lavoro, un'amica? No, un'amica che eravamo conosciute tramite altri amici. E questo ovviamente ti ha turbato. È stata l'unica occasione in cui hai svelato di essere rom e ti sei sentita messa da parte, in cui l'atteggiamento dell'interlocutore è cambiato? Mi sono sentita anche altre volte, però preferisco di dire solo questa, quindi... Il cuore rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano come un rame a imbrunire su un muro. E al lavoro ti è mai capitato di presentarti a un posto di lavoro e dire che sei rom e non venire assunta? Non mi sono mai presentata che sono una rom, mi sono presentata come sono una rumena, però nel frattempo che lavoravo loro si sono accorti che io ero rom. Però non mi hanno mai detto, non mi hanno giudicato, hanno detto che siamo persone uguali, quindi... E come hanno fatto a accorgersene? Perché nei discorsi è uscita questa tua identità? Sì, quindi lui quando mi ha chiesto, per esempio il mio capo, ma tu sei rom? Però io l'ho visto che era già mi conosceva, già avevo preso un po' di confidenza, diciamo così, per il lavoro. Quindi ho detto la verità, sì, sono rom, dico, se ti dà fastidio... Mettiamo qui, non c'è problema, mi cerco un altro lavoro, ma mi fa no. Quindi io ti ho conosciuto, ho visto come sei come persona, quindi non mi interessa niente se sei rom o no. Perché tu già lavoravi presso di lui da qualche tempo. Sì, sì. Ecco, stasera mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso, 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame e non ricordo sete di acqua o di vino, ho sempre corso libero, felice come un cane, tra la campagna e la periferia, e chissà da dove venivano i miei, dalla Sicilia o dall'Ungheria, avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica, leggevano la musica nel firmamento. Rispose la ragazza, ho 13 anni, 32 perle nella notte, se potessi ti sposerei per avere dei figli, con le scarpe rotte girerebbero questa ed altre città, questa ed altre città, a costruire giostre e a vagabondare, ma adesso è tardi anche per chiacchierare. Tu vivi a Milano, dicevamo, in una casa. In Romania invece dove vivevi? Vivevo sempre nella casa. Non hai mai vissuto in un campo, in roulotte o in situazioni di questo tipo? No, mai, mai nella mia vita. E quando vedi questi campi Roma, i bordi delle le periferie delle città, qual è la tua sensazione? Che cosa provi verso queste persone che vivono di nomadismo? A me mi dispiace perché vedo che possono fare tanto di più, però tanti hanno voglia, tanti no, quindi mi dispiace solo quando li vedo così, perché potrebbero fare di più, però non hanno voglia, tanti. Quindi tu dici che è colpa loro, attribuisci a loro una responsabilità? Devono svegliarsi anche loro un po'. Dipende dal comportamento, come si comportano, come si vestono, perché sono tanti con... Cioè si spaventa la gente già quando vede la gonna lunga, le trecce. Quindi dovrebbero integrarsi un po' di più anche a livello così di costumi, di modo di fare? Un po' sì, perché così la gente già non si spaventa subito quando li vede. Invece della cultura rom, che cosa ti è rimasto? Io da quando sono venuta qui io mi sono cambiata tantissimo, quindi le culture così con i matrimoni, i battesimi come si fanno nelle nostre famiglie, queste feste grandi, mi piacciono, questi sì, li teniamo sempre. Perché da voi ci sono delle grandi feste che durano giorni, no? Per queste riti tradizionali, tipo battesimi, matrimoni. Sì, durano 3 giorni anche, in Romania però qui non si permettono più a tenere 3 giorni, quindi un giorno e basta. Sei più tornata in Romania? Sì, tantissime volte, l'ultima volta sono stata 2 mesi fa, abbiamo tantissimi parenti lì. Senti, tu hai un fidanzato, Loredana? Sì, ce l'ho. Un ragazzo italiano? No, rumeno. Rumeno rom o rumeno? Rumeno rom. E lui vive anche lui in una casa, ha un lavoro? Lui per adesso è in Romania, ha la sua casa, ha il suo lavoro lì. E pensi che tornerà in Romania quindi? Io spero di stare un po' qua, un po' di là. Ma ti senti italiana o rumena? O rom? Adesso mi sento un po' mista. E due zingari stavano appoggiati alla notte, forse mano nella mano, e si tenevano negli occhi, aspettavano il sole del giorno dopo, senza guardare niente. Grazie Loredana per essere stata quindi con noi, per averci regalato uno spaccato della sua cultura. Prima di chiudere però diamo la sua ricetta. Sarmale, involtini di verza. Ingredienti: un cavolo verza grande, 700 g di carne trita mista, maiale e vitello, 2 fette di pancetta a dadini, 2 uova, una cipolla, una carota, aceto, olio, 80 g di riso bollito freddo, pepe, sale, prezzemolo tritato quanto basta, qualche pomodoro maturo tagliato a pezzi, concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco. Sfogliare con cura il cavolo verza e lavare accuratamente le foglie. Per renderle più morbide, scottarle per pochi minuti in acqua bollente. Intanto mettete a stufare olio, cipolla e carota in una pentola antiaderente. Appena la cipolla è lucida, spegnere il fuoco e aggiungere il riso. Aggiungere la carne trita, sale, pepe, concentrato di pomodoro, prezzemolo e le uova. Mescolare il tutto finché diventa un impasto.